mettermi in mostra agli occhi di lei. Poi scherzava con tutti i ragazzi all'infuori di me. Perché? O poche? Perché no? Perché? Io le piacevo. Lei mi amava, mi odiava, mi amava, mi odiava, ero contro di me. Io non ero ancora suo ragazzo, già soffriva per me. Facendo finire quella notte lungo il mare venuta con te. Ora tu vieni a chiedere a me il tuo amore dov'è. Dovrebbe immaginarti che un giorno o l'altro sarebbe andata via da te. Vai sapendo, attendo che lei, sbattendo che lei moriva per me. Con i tuoi soldi hai comprato sul corpo, non certo sul corpo. Lei mi amava, mi odiava, mi amava, mi odiava, era contro di me. E io non ero ancora suo ragazzo, già soffrivo per me. Quella notte lungo il mare venuta con te. Un giorno io vidi lei entrare nella mia stanza, mi guardava silenziosa, aspettava un sì da me, ma lenzo il mio assai e su se la guardai, sembrava sul supervisore rimandando la rabbia.